La via del teatro con la nostra sigla, come dico sempre, dopo il GR di Radio Popolare, il triplo appuntamento che alza il sipario sui 103.1. Se mi sentite un po' trafelato quando ho l'ospite e ne sono ben onorato in diretta telefonica, praticamente faccio tre cose in una volta: stacco la linea con il GR di Radio Popolare, faccio le prove fuori onda per il contatto telefonico, lancio la sigla di In Scena, e quindi insomma tutte queste cose qui mi portano a un attimo di fiatone, però ce l'abbiamo fatta. A quanto pare sono molto contento di dare il buongiorno e il bentornato a Alex Carpani. Ben ritrovato Alex, buongiorno. Ma come? Ho detto tanto? Ma dove sei finito, Alex? Allora ci riproviamo, ci sei Alex? Sì, ci sono. Ecco, ok, perfetto, mi ero preoccupato, ho fatto tutta una presentazione e poi ho avuto un attimo di buco, comunque abbiamo recuperato. Eccoci qua, stiamo parlando di Tre Teatri per Te, unico difetto, ci sono troppe R in questa denominazione, ma è un problema mio di pronuncia, per cui insomma già partita la stagione teatrale di Crevalcore, ed è un cartellone assolutamente molto esteso per un periodo che va dal 15 novembre, quindi già partito con un All-Star Game di protagonisti di cui ci parlerà a breve Alex qua ai nostri microfoni, e sarà fino al 20 marzo 2024. Allora, questa partenza è stata veramente uno star game, Alex? Sì, l'altra sera in realtà abbiamo presentato la stagione che partirà a gennaio, il 18 gennaio, ma è stato un momento in cui abbiamo voluto insomma radunare attorno a noi tutti gli amici che ci seguono da tanti anni, tutti gli abbonati e anche persone interessate al teatro che appunto hanno già messo le mani avanti, come si dice, manifestando l'intenzione di abbonarsi e di venire a teatro. Era un po' una festa di saluto e di avvio di questa stagione che si annuncia molto interessante. Insomma, noi abbiamo lavorato tanto, fatto tanti investimenti come sempre sul cartellone, sul programma e anche diciamo sulla scia dei risultati dell'anno scorso, che sono stati molto incoraggianti come numero di abbonati, biglietti eccetera. Quindi vogliamo fare diciamo così bella figura anche quest'anno e abbiamo messo insieme un cartellone di cui siamo abbastanza fieri. Bene, e ne sono ben contento perché il Breakfast Club è vicinissimo al territorio della nostra provincia, qui siamo nella parte più nord-occidentale, siamo a Crevalcore, comune di confine tra Ferrara e Modena, per cui di attenzione e intersezione. Si parte ufficialmente dopo questa presentazione, puoi dare qualche nome, non so, come si comincia ad esempio? Allora, si comincia il 18 gennaio con uno spettacolo dal titolo Lina's Rhapsody, dedicato a Lina Wertmüller e portato in scena dal nipote Massimo Wertmüller, che è un grande attore di teatro che calca le scene da tanti anni e che racconta diciamo, l'esperienza artistica e di vita di Lina dal punto di vista musicale, però, perché non tutti sanno che oltre ad essere una grande regista era anche una grande musicista e autrice di musiche, che ha collaborato con Morricone, con Rota, con Iannacci, e per la quale appunto la musica era una cosa molto importante. Quindi scopriremo un lato della sua vita meno conosciuto diciamo da parte del pubblico, che ovviamente invece riconosce molto bene i suoi film. Inizieremo quindi il mese di gennaio con questo spettacolo, che sarà seguito il 31 gennaio con uno spettacolo con Fabio Troiano, che si occuperà diciamo di raccontare, di rendere in scena le avventure fantastiche e incredibili di Peppe Carvaglio, che è un personaggio diciamo letterario, immaginario, ma che potrebbe avere ovviamente anche degli agganci con la realtà. Sono state tante nel corso della storia le persone che hanno avuto delle vite incredibili, no? E Carvaglio è un concentrato di esperienze, di avventure, di contraddizioni gestioni, prima militante antifranchista e comunista, poi agente segreto della CIA e poi investigatore privato, esperto di enogastronomia, insomma ci sono veramente tanti ingredienti di tutto e di più. Ma il teatro è anche questo, rendere delle vite straordinarie o rappresentare delle vite reali che sono state straordinarie. E poi avremo il mese di febbraio, che si aprirà il 13 con Violante Placido, che porterà in scena Quantum One, uno spettacolo sull'esplorazione del cosmo, dello spazio, partendo dai testi di Carl Sagan, questo grandissimo astrofisico americano scomparso qualche anno fa, e diciamo le musiche di Andrea Vettoretti, che ha utilizzato suoni e registrazione del cosmo, dello spazio, e da lì ha costruito delle musiche su cui si poggia lo spettacolo, e sarà veramente un'esplorazione verso l'ignoto, una cosa multimediale e direi anche quasi multisensoriale. Proseguiremo a febbraio con il quarto spettacolo, che è un classico del teatro e anche del cinema, L'anatra all'arancia, con Emilio Solfritti e Carlotta Anatoli, che è diciamo un concentrato della follia umana e quindi di una guerra tra due persone, tra una coppia, insomma, che si tende ogni genere di tranello, di trabocchetto, che prova ogni genere di invidia, di gelosia, di cattiveria, salvo poi alla fine riuscire a filtrare tutto e decantare tutto in un grandissimo sentimento che è l'amore, attorno al quale poi si ritrovano. Quindi due protagonisti assoluti del palcoscenico. Marzo sarà diciamo il terzo mese di programmazione della nostra stagione, inizieremo il 5 con Stefano Massini, che porterà in scena L'interpretazione dei sogni. Massini, come ricorderanno i telespettatori, oltre a essere un personaggio televisivo molto conosciuto, è un grande attore ed autore teatrale che ha ricevuto premi internazionali e che negli ultimi 10 anni si è diciamo dedicato ad investigare i misteri dell'animo, della mente umana. Ha dedicato agli studi di Freud anche diversi libri e quest'anno porta in scena questo spettacolo che sarà un insieme di quadri immaginifici incredibili, di racconti di sogni reali e quindi personaggi surreali, un miscuglio, diciamo, un mix di ingredienti da vedere e da ascoltare per compiere anche qui un viaggio in esplorazione, non verso lo spazio ma verso i misteri più reconditi, più incredibili della nostra mente, che come sapete è stata scoperta per molto poco, quindi la gran parte delle potenzialità del nostro cervello sono ancora da scoprire. E poi finiremo il 20 marzo con Cuore di Burattino, con in scena Lella Costa, un testo di Costa e Gabriele Vacis, dove il personaggio universale senza tempo di Pinocchio viene qui portato in scena come un Pinocchio contemporaneo, e quindi delle bugie non sono tanto quelle, diciamo, ingenue e innocue di un bambino, ma le bugie con cui si trova a fare i conti Pinocchio al giorno d'oggi, le fake news, la manipolazione dell'informazione, il bombardamento di stimoli e di informazioni, appunto, che rendono difficile le scelte, la comprensione degli avvenimenti del mondo, e quindi la necessità di essere critici, la necessità di mettere in discussione tutto e di usare prima di tutto le proprie convinzioni e le proprie conoscenze per andare avanti, e ovviamente Lella Costa è una garanzia rispetto a questi temi, insomma, per la sua esperienza al teatro di narrazione e la sua serietà di attrice e di personaggio. Quindi noi abbiamo deciso quest'anno di concentrare i 6 spettacoli in 3 mesi, sono i mesi invernali, i mesi più freddi, dove ci riscalderemo con il teatro. Assolutamente, onore al merito per l'impegno anche di Alex e dello staff per 3 teatri per te. Siamo a crema al cuore, la stagione che è già partita con la presentazione il 15 novembre, ma sarà fino al 20 marzo 2024, esattamente tutto l'inverno praticamente riscaldato da questo All Star Game di nomi di cui abbiamo dato sintetica ma dettagliata presentazione. Allora, diciamo due parole anche sul palcoscenico, sulla sede teatrale a Crevalcore, Alex. Sì, allora, noi, come sapranno molti ascoltatori, dal terremoto del 2012 lavoriamo in una sede alternativa, che è l'Auditorium Primo Maggio, che è uno spazio moderno, grande, da 400 posti, che si trova in via Caduti di Via Fani a Crevalcore, nella zona sportiva, è facilmente raggiungibile e ha un ampio parcheggio all'esterno. Questo spazio è quello in cui concentriamo tutte le nostre attività. Ricordo agli ascoltatori che a partire dal 2 dicembre sarà possibile comprare biglietti e abbonamenti anche online su Viva Ticket o qui in teatro, secondo tutte le informazioni che gli ascoltatori potranno trovare sul nostro sito. I prezzi sono super convenienti, nel senso che è una delle nostre politiche questa, insomma, di avere dei prezzi molto contenuti, quindi il nostro intero costa 20 euro per spettacoli, quasi gli stessi spettacoli che magari visti a Bologna o a Modena costano 31, 32, 38, quindi abbiamo sempre fatto una politica molto attenta anche alle licenze. Certo. Esatto, poi ci sono tante forme di abbonamento possibile, c'è il carnet di 4 biglietti che possono essere regalati o per 4 amici che vogliono vedere lo stesso spettacolo, insomma abbiamo tante combinazioni possibili e dal 2 dicembre, ripeto, sarà possibile acquistarli o in teatro nelle giornate indicate o sul sito. E poi un piccolo suggerimento a chi magari non è mai venuto qui, è un paesino, come dicevi tu, che è un crocevia, no? tra vari territori, Modena, Bologna e Ferrara, dove si mangia molto bene, tra l'altro, quindi si può decidere di passare una serata qui, di venire un po' prima, di andare a cena, di venire a teatro, non si impazzisce per trovare il parcheggio, non si paga il parcheggio, si è coccolati dal momento in cui si entra. Si vede uno spettacolo al 40% in meno del costo rispetto ad altrove e magari alla fine c'è anche la possibilità di incontrare gli attori, perché non ci sono uscite secondarie e c'è proprio un clima molto familiare che anche loro accettano di buon grado, quindi è un'esperienza sicuramente interessante da fare. E per seguire il programma adesso abbiamo dato il via, insomma, e per averlo magari per selezionare o per dare approfondimento in rete ed avere costantemente la possibilità di confrontarsi e consultare, c'è il sito, immagino, lo vogliamo citare? Sì, allora il sito del comune che è www.comune.crevalcore.gov.it oppure sul sito vivaticket.it, dove selezionando la località e il teatro, e quindi Crevalcore o Auditorium Primo Maggio, verrà illustrata tutta la stagione con tutti i prezzi e tutte le condizioni applicabili per gli abbonamenti. Certo, ogni tanto la rete ci viene in soccorso ed è giusto darne attenzione in questo caso. Io concluderei con una frase bellissima. Benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Gigi Proietti. Quindi direi, esatto, che è esattamente una summa di tutte le attenzioni e le emozioni che abbiamo voluto portare. Alex, io ti ringrazio tantissimo. Appuntamento a Crevalcore, per cui insomma non perdiamo questo occasione con un ulteriore palcoscenico con le sue originali caratteristiche e una qualità assolutamente importante. Grazie Alex e buona giornata. Grazie a te e ciao. A tutti gli ascoltatori, ciao. Buona giornata. questo giovedì, questo groove o similare lo potete trovare al binario 69, insomma una citazione che volevo fare, ma poi ne parleremo anche avvicinandoci alla data per uno dei club inerenti al Bologna Jazz Festival. Oggi Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30 con Emiliano Pintori in diretta con noi per Jazz Insight, Bologna Jazz Festival. Stagione teatrale di Crevalcore, paese che nel cuor mi sta anche per questa intersezione che abbiamo tra Modena e Ferrara nella pianura nord-occidentale della nostra provincia, con un'attenzione al cartellone veramente molto forbita e una possibilità che ci accompagna a teatro, quindi da non perdere. Sarà fino al 20 marzo 2024. Grazie Alex Carpani, direttore artistico per Tre Teatri per Te. Noi ci sentiamo tra pochissimo, ci avviciniamo un po' per uno spettacolo in edizione straordinaria. Siamo a San Giovanni in Persiceto, Teatro Fanin, Monio Vadia. Ho contattato Monio Vadia, ne avremo modo di conversazione tra pochissimo. Abbiamo parlato di pensiero unico, abbiamo parlato di situazione riguardante la propaganda e l'informazione, abbiamo parlato di Oilem Goilem, lo spettacolo che sarà a San Giovanni in Persiceto, che ho avuto modo già di vedere qualche anno fa per musica klezmer, cultura yiddish, cultura, punto, e un'attenzione a quella che è la realtà purtroppo nazionalista e sovranista che in questo momento, come possiamo ben vedere, ha purtroppo un'importanza negativa anche sull'informazione molto molto incisiva. Ne abbiamo parlato con Monio Vadia, tra poco con noi sui 103.1 Teatro Fanin, San Giovanni in Persiceto alle ore 21. A tra poco.